Capitolo quinto. Il rispetto verso i genitori. Il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: colui che vuole entrare in paradiso per la porta più bella deve fare contenti suo padre e sua madre. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: nel compiacimento del padre si manifesta il compiacimento di Allah, mentre nel dispiacere del padre si manifesta il dispiacere di Allah. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: i peccati gravissimi sono il politeismo, cioè l'associare ad Allah divinità fittizie, la disobbedienza ai genitori, l'omicidio, il falso giuramento. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: in verità le porte del paradiso sono sotto i piedi delle mamme. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: per colui che si leva all'alba e obbedisce ai comandamenti di Allah riguardo ai genitori, ci saranno nel mattino due porte del paradiso aperte per lui. Se gli sarà rimasto solo un genitore, la porta aperta sarà una sola. Per colui che la sera avrà disobbedito ai comandamenti di Allah riguardo ai genitori, ci saranno due porte aperte per entrare nell'inferno. Se gli è rimasto un genitore soltanto, allora la porta aperta sarà una sola. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: Allah può perdonare ogni peccato che vuole perdonare, ma non perdona mai la disobbedienza ai genitori. Chi disobbedisce ai genitori sarà punito da Allah in questa vita prima di morire. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: senza alcun dubbio le invocazioni che Allah esaudisce sono tre: quella dell'oppresso, quella del viaggiatore e quella dei genitori per i propri figli.